prova. Regolatore, prima lo regolo io, perché tanto più di 5 no, non li do. minimo e il massimo. Oh. Anche l'acqua, lo regoli naturalmente, lo vedi. Va bene, spinge alla grande. Spinge alla grande, no? Si aumenta, però mi ha detto che c'è l'alternata, vediamo un po'. Allora, adesso ci abbiamo il marchigin appena oltre la metà. Spinge un po'. Ma il watt stai aumentando tu, perché c'è quella rotellona per mettere il watt. No, no, sto aumentando il marchigin adesso. I watt sono a minimo, a zero. I watt sono, aspetta, scala 5, 5 watt, 4 watt e mezzo adesso. Il marchigin ho detto è appena più della metà. Forse è una tornata fa. Perché ho aumentato il marchigin. Così ancora c'è alternato. Guarda, ma forse come sta toccando il microfono. Guarda adesso. No, va bene. Guardati i video, tutti e due. Va bene, perfetto. Ok. Tutto roggero. Meglio, tutto a posto. Scusa, stavo pensando per quella roba là. Che me ne dopo te dico al telefono. Meglio. Il vento si è alzato, immagino. Aspetta che ci provo, il microfono quello che uso io nel cotto, aspetta. Provalo. Antonio. Dimmelo. Guarda questo qua, il microfono, questo è quello che usavo al colto. Mi pare un bel migliore. Vabbè, perché è tirata la cosa, capito? Capisci a me, dai. Uno, due, tre, uno, due, tre. Aspetta, ti faccio il video. Questa è una bomba. Fammi il video, dai. Lo sto sistemando il bambino, è una bomba comunque. Prova, aspetta, 1, 2, 3, Antonio. Antonio, alla prova, 1, 2, 3, prova. Antonio, prova, 1, 2, 3, prova di modulazione. La modulazione è provocante, forte. Ciao Mari, mi sto facendo il video. Antonio, adesso ho messo il mic un po' quasi al massimo. Hola. Microfono, è questo. Prova. Basta per appena, scusa. A 8 è adesso, bene va? O abbassa ancora? E abbassa ancora. Adesso è a 6. Prova, 1, 2, 3, prova. Allora, per me va bene così. Per me, per il coso mio, va bene così. Antonio sta sistemando il bambino. Allora, aumentiamo un po' di watt. E vai da 9.20 a 9.25. Ottimo. Il microfono questo è quello. Adesso ti arriva il video. Ora. Quello nero chiuso col coltello. Già va bene, ottimo. Adesso aspettiamo che entri Antonio. Ok, dai, per me va bene così, per me, per la mia radio. Dopo già lo sai, in radio c'è le sue cose, no? Certo. Ogni radio c'è la K. Sicché lo lascio così, poi se lo regolerà Antonio. Dimmi tutto, buonasera Marino. Ehi biondo, buonasera anche a lui, è ben alzato. Ma grappa. E allora, stavo chiamando l'altro giorno, vabbè, poi già te ne parlo. scusate, mi hai chiamato, hai detto? Ti ho chiamato l'altro giorno, ma già te ne parlo dopo, cioè più, con più calma te ne parlo. Ah, ok, dai, non c'è problema. Bene, mi hai ascoltato Luca, sì? Io l'ho ascoltato, va alla grande, stavo ascoltando là dentro che c'ho il bambino. Adesso, ogni tanto, sono col marachino normale in camera da letto, come arrivo dalla ottava? Guarda, per quella che sono utilizzando io va bene come la regolata lui. Logicamente poi vediamo, non sai, ognuno della sua. Per me va bene così, regolata così, secondo me. Sì, no, ho detto, arrivo bene lì dalle parti tue. 9.18, dai, 9.18 sta arrivando. Luca riceve una posizione di braccio più favorevole a te. Luca, 9.25 Luca, vabbè. Siamo bene lo stesso, dai, 9.18 non va bene, caspita. Anto? Favorevole a te, io sono un po' più nascosto. Anto? Me. Allora, mi ha fatto la regolazione, Marino, ti ho messo il marchino a 7. Poi vedi tu se te lo vuoi aumentare. Vabbè, adesso c'è questo microfono, considera, Bene, va bene. Perché prima era così, però Marino mi ha detto era troppo forte. E allora l'ho abbassato. E io quanto lo so regola come vuole lui. Per me, per la mia radio va bene così, come tu l'hai regolata. Dopo lui se lo regola come vuole, capito? Per qui va bene quella misura, la regolazione, diciamo. Marino, ma ti sei rimesso l'antenna? Come tu, ho visto un po' di scariche, cosa hai detto? Certo, ti sei rimesso l'antenna. Perché quando ti sta arrivando? Sto usando una canna a pesca, poggiate in terra. Capa, adesso vado a vedere dentro, comodo. Non lo so. Guarda, vado dentro, un attimino. Avanti, Luca. Che regalo, vediamo se c'è il bip. Ora. No, il bip non c'è. C'è un leggero venticello, però c'è da morire dal caldo. Hola. Adesso sì. Caparoccio. Perché ha messo scirocco. Adesso da morire, c'è da morire, ragazzi. Quelle due luci stamattina aveva una macchina bianca. La macchina bianca c'aveva. Cazzo, ma sembrava forte, fai vedere un attimo. Guardate il video, tu. Comunque. Mari per Antonio, così ti dà quel controllo. Ok, guarda in questo passaggio, Antonio, 1, 2, se prova. Oh, 6, 9, 10. Cosa c'è, Gabri? Mamma mia. 7, 9, 10, sì. Già va bene, c'è il bambino che sta piangendo. Lo so, chissà cosa ha combinato. Hai capito, Lucrezio? Gabri. Ok, io. E adesso salgo e faccio caffè. Sono 5. Salgo la mia figlia e faccio caffè. Così impari. Tanto tu domattina vai da Don Camillo, ti metti un po' di Nutella e so che andiamo, dai. Falli quel buco nel confessionale. Ma questo apparecchio è aumentato il segnale, Maria. 9.25 adesso. Cassarola. Perché va al minimo quello là. Già va bene tu. Anche come radio sta arrivando bene. Lo stesso segnale di Luca, ciò. E mi sta chiamando mia figlia per fare il caffè. Ci sentiamo dopo, Maria, vai tranquillo. Voglio poco fare nell'altra camera, capito? Aspetta, rimetto l'altro il microfono di tavola, aspetta. Prova a vedere. Ma devo abbassare. Così bene quanto. Alla grande. Questo è l'MB. Tu che sei andata per la mezza internata. Vai abbassando ancora. Con il macchino l'ho toccato, è dall'altro microfono, sempre a 7. Andiamo bene. Che vero, Gero. Accappa. Cosa c'è, Gabriele? Stanotte papà ti fa la pasta. Sta sempre con questi criticisti, che volevi abbiare in bocca. Devo avere in soffitta, c'è altra roba. Quello che hai fatto, sempre giocando sta. Ora se ti è arrivato l'ultimo video. Ah, ecco, ce l'ho dentro il cellulare. Poi vado. Thank you. aspetta, lo cerco, che te lo rimetto, aspetta. Aspetta, sto guardando, cosa hai detto? Tra l'altro già, mi hai caduto il fatto di davanti questo microfono, aspetta, te lo sto cercando. Va bene. Mose. Luca? Sì. Oh, non l'ho fatto. Chi ha chiamato? Oh, sono sentito. Sto cercando quel tappo, non riesco a trovarlo, porca miseria, sto guardando bene. Non mi ricordo, l'ho messo, sono messo in qualche cassetto. Pressano sul piano. Perché ce l'avevo nei piedi questo microfono, con la radio aperta e tutto. E nel frattempo ce l'avevo messo dentro il mobile, poi l'ho preso dal mobile e è caduto, mi è caduto il quel tappo in avanti. Cazzo, è un momento di aggiungo, sono gabbaide di tutti i rumi. Volevo un sonno, mamma mia. Dormi tu, sì, a tu, chi la vuole questa antenna, te l'ho detto, l'ho detto già anche a qualcun altro. Mi la tenessi di là, il tempo di smontarla. Mi ha fatto bene, dove più un'anima, non mi va più bene, mi vuoi goduto, buonanotte. Se oggi mi si presentano, domani ne accendo e viene a pigliare sigla. Ha detto che la regala. Vabbè Marco, tu sei. Tutto, regalare tutto. Non svendita, regala sì, come si dice. Che siamo al mercato del... Ma voi ci andate, per curiosità, buonasera a tutti, al mercatino della roba antica, tipo l'ultima, cos'era, l'ultima domenica del mese, non mi ricordo, o c'è una roba sotto ciarpame? E dove? Oh, a Sassari, non facevano il mercatino? Non mi ricordo se era Piazza Castello, Piazza Italia o Piazza Giuni. Era il mercatino del, come si dice, della roba antica. Ed era, mi pare, l'ultima domenica del mese. Antonio se lo ricorda forse, boh? No, non se lo ricorda. Non si è aggiungato neanche mai che mercatino, fiera dei cibi, per radiamatori e nocchi. Dai. No vabbè, sai cos'è? Quel mercatino della roba antica, salvo rarissimi casi che trovi una cosa veramente esclusiva, c'hanno le stesse cose che dopo un mese, dopo un anno, dopo anni, le stesse identiche cose invendute. D'altronde, a me cosa sarebbe potuto interessare di quella roba antica? Che ne so, un orologio che abbia i caratteri altrizio, quelli che brillano nel buio. Quello sì. Ma Antonio ha chiuso. È a caratteri cubitali, sì. Perché cubitali? Ogni tanto questa tosse. E quindi niente, dai, il mercatino dell'amenità. E quindi nessuno l'ha voluta ancora quella, ma ho capito bene, lei è la G. Grazie, Uri. Vabbè, no perché la Graziuri soprattutto non tiene che fa gola, vabbè che qua fa gola a chi, non vedi più, vabbè, e magari se la vogliono lo sai, no, la vogliono a 50 euro, e quindi niente, tanto vale la roba è tenersela. Bene Luca, io ritorno alle mie faccende affaccendato. Ci sentiamo. Ehi, anche io sto chiudendo, sto cercando una cosa. Yeah. Ciao, ciao, ciao. Bomba! Buongiorno. Ciao Antone, cosa stai trafficando? Regolando? Sento un fischio, avevo sentito. Fischio? Oh, sto usando la magnetica. No, no, forse, o era una sovraondulazione, qualcuno ha prenotato assieme a te, Ah, probabile, magari qualcuno abbia prenotato insieme a me. Anche perché io sto usando la della magnetica, la manca va fuori uso. Ah, è vero, il segnale tuo è 9 più lampeggia, ma l'hai messa fuori uso tu per manutenzione o si è scassata? Ci è passato il fulmine. No, Antonè, già c'è un innesco, ogni tanto si mette a frignare. Adesso c'è una fischia però. Stavo dicendo che si è passato il fulmine qua. Me l'ha preso in pieno. Ma dici sul serio? E allora, mi ha bruciato due televisori, quello di Cavalletto, quello di Cavalleria, e il termico, quello che c'è appena entri in casa per staccare la corrente, capito? E poi la tela è, capito, proprio presa in pieno, dove mi ha spaccato la plastica della tubo 2001, dove c'è l'attacco della bobina grande, che ha fatto un tratto di 20 cm. E poi ha scaricato nel paletto, cioè è proprio nera sotto. Minchia! Allora ho pindacciato io. L'altro giorno, scherzando, ho detto che un fulmine ve ne possa scendere su tutta la vostra antenne. Toccati le palle! Io mi sono abbiato, quello che mi faccia. Ha preso anche l'antenna TV, l'ha spaccato il cavo, l'ha spaccato, me l'ha bruciato a metà. Ha fatto un trappo e ho dovuto tagliare un pezzettino, da una parte all'altra, l'ho aggiunto, ma non la va a fare, evidentemente nella punta dell'antenna deve essere bruciato anche lì, la spina di pesce, e devo salire sopra il tetto e sistemarla, adesso non ci salgo, a parte che c'è il vento, se voglio avere problemi, non sa che arrivi qualche fulmine per sbaglio, perché ho visto che sta facendo temporale verso la zona di Tempi, Olbia e Casca del Sabbio e cose del genere. Hai visto che sta arrivando questo vento strano di acqua? Sì, guarda, sono andato in macchina a prendere una cosa, che devo mettere musica sulla chiavetta MP3. Come sono sceso? Cioè, prima di uscire ho visto questo già volare foglie, roba, un bel ventaccio c'era. Però almeno è ventilato, vedi? Però cavolo, non me l'aspettavo questa... Cioè, io l'ho detto scherzando, perché un fulmine... Cesso. Adesso quando la scendiamo vediamo se si può riparare, se no gli avevo cacciato la mobetta per la base. Lo stile è nuovo lo mio, quindi... anche radiali, capito? Solo dove c'è la... speriamo di poterla recuperare, dove c'è la bobina. E lo sai che c'è la bobina sotto quella plastica nera, no? C'è la bobina di cavo rigido, c'è. Vai a trovare il cavo rigido, tu, penso, in commercio. E beh, non si trova più, si usava 30 anni fa quello, quando si facevano impianti a aceto storico. Ascolta, ma e poi cosa ha fatto? Blackout alla palazzina o le palazzine intorno, tutte e due? Ha fulminato la luce del come si chiama? A parte il termico che ho io, capito? Il quadro proprio, capito? Ha fatto fuoco, poi c'è l'ascensore ancora senza luce, la paura non funziona, capito? E poi nel palazzo a fianco la stessa identica cosa, ha fatto danno a casa di una tipa, gli è abbassato il termico, e mi sembra che non funziona né il frigo né lavatrice, è un cazzo. Deve essere passato di striscio, senz'altro, perché se fosse stato, se avrebbe beccato il palazzo, avrebbe fatto un tocco, mi sarei cagato sotto come minimo. Invece non ho sentito il fulmine da lontano, fulmine a pieno, una pensa all'altra, però non pensavo, forse mi avrà preso quello trasversale, no? Come già lo sai che ci sono anche i fulmini di traverso. Sì, li conosco anche quelli, solo che tu un botto devi averlo sentito, di solito è assordante il fulmine, ti fa sordo, manco per il fatto che ti viene poi, per carità. È la prima volta che ti capita. Sì, è molto sentito, il canale di Simona, la televisione, ha fatto pa! Poi ho visto che ha scaricato nel PL qui, nel pavimento, ha fatto la stessa cosa, però non ha dato più di tanto, capito? Ho visto il cavo era bianco, il colore, è scesa per la pera di acqua, però si è sciolta per la pera lo fagno che c'era davanti nel PL. come mai avrei pensato quando sono salito su ieri che mi avesse spaccato, avesse la plastica e sotto affiammato proprio, visto da dove c'è la base, dalla base alla dove c'è il tubo che fa massa, quel tubo di alluminio che fa massa alla, dove spingono le gaffette, lì ha sfiammato anche, capito? Proprio la sfiammata proprio grande, sarà almeno 15 cm di altezza. Mamma mia, guarda, mi si alzano guai, i peli del braccio, i brividi vengono solo a pensarci. Chissà poi che è contento adesso l'amministratore. Non sa nulla, non gli ho detto niente, ma tu sei cazzo, se io dico immediatamente non mi fanno fare un cazzo a quelli. Capito, dico che sono la colpa la mia. Ma il fulmine dove cade, cade, lo sai. A proposito, la vuoi la Venom provvisoria? No, adesso non piazzo niente, c'ho... Non mi serve la Venom, sto tranquillo. No. Per il momento adesso me ne scendo la moto, guarda, la riparo e poi ce la rimetto in un succhio e metto. Me la faccio con calma, non è quello il problema. Cioè, sono stato dal tubo 2001, pensate a me alla finestra. Visto che esco bene, arrivo fino a Porto-Torre, quindi cosa mi la futti? Almeno quando fa temporale, prendo e ce la metto dentro casa. Sì, porca miseria, non me l'aspettavo, non sono basito. È una cosa che già mi spaventa terribilmente. Il fulmine, figurati sentire una cosa del genere a casa, poi parte tutto, frigge tutto, è una cosa terribile, è come un impulso elettromagnetico, tutte le cose sensibili se li frigge, poi con questi microcircuiti, microchip, si porta via tutto. Antone, io ti devo staccare per forza perché devo fare una cosa per mamma. Se posso entro dopo, se non ritieni ti salutato. Comunque se la vuoi già è lì, è nuova, bella, luccicante, in busta, provvisoria. Vabbè, adesso è troppo fresca la cosa. Ma quando è successo, dimmi? Avanti ieri. Ah, ci sono le cose, ci sono, le ho viste ieri su eBay. Il fatto che sembra tutto, hanno bloccato anche il reddito di inclusione, quindi un bel di gente a Sassari, compreso anche a me, per fare degli accertamenti, non so che cosa. E quindi c'è il telefono avuto, hanno fatto un casino, lì si capisce un cazzo. Mi sa che non pagano manco le pensioni. Quindi quando vai a ritirare la pensione, te lo sto dicendo, c'è gente che viene salvato di meno, viene salvato, quindi tutto fatto dall'Inps. Ah boh, io l'ho ritirato oggi per mamma e tutto regolare. Vabbè Antonio, allora, a dopo, se non entro, se non riesco a entrare, ritieniti salutato, ok? Dai, ci sentiamo. Io d'accordo, non c'è problema, io non ti preoccupare. Ok, se devo pigliarmi un'antenna, visto che sul bici ne sono tante, 60 euro, via 27 L, in vendita, ne prendo una e così sogno... dormo con i sogni tranquilli, e la moto è troppo alta, invece quella più piccolina, capito? Se si spacca quella se la prende il culo, c'è il cassone, la volta a pezzi se la biglia in Napoli.